Sforziamo un pochino, vai, non ti preoccupare, già le facciamo scendere. Vai, Anto. No, se la buona Natale Gabbizzuda, vedi come anticipo che c'è da 6, 9 e 30, sul più del 9 e 30, sì. Ok, tu sei sul 3 già. Qui c'è Claudio sul più. Aspetta un attimino. È buona già quel tipo di antenna, io ce l'avevo sul tetto e pompava, No, già va bene, 9:10 qua, nel Poggiolo, ma cosa vuoi di più, va bene, qui siete tutti vicini, quindi non è che ci sono problemi di ascoltarci, già va bene, ottimo. Arrivi a Burassuso, ho visto che arriva anche in parecchi posti, arriva. Vabbè che già ce l'ha vicino, non è che è più vicino di me forse, mi sono accorto che non mi ricordo chi c'era da lontano e lo sentiva perfettamente. Tu sei chi sa te la schicchia di più, avanti 9:30, più del, poi lo stesso segno di Luca, su per i 9:30. No, aspetta, scusate. Ah, ok, dai. Allora, cosa vuol dire FWD? Cosa vuol dire? FWD nel rosmetro. L'altro che c'è sotto cos'è? Off, e poi sopra ref. Riflessa diretta vuol dire, Gianlu. Vabbè, perché oggi non mi dà, stasera poco. Vabbè, questa tale sono 1 e 3. 1 e 3, aspetta. Così, power, e così, ok, da 10 watt. Tu ce l'hai un F o un Francia Whisky Delta? Francia Whisky Delta, ref mi segna praticamente 1 watt. Ok, no, vado ad andare FWD. Va bene. Ok, lascio così allora. Perché se lo metto così va a sbattere a 5 watt, l'ho messo a 20 watt, 20 watt mi sta segnando 12 watt quasi. Bisogna stazionare nel mio Intec. Tutto, quanti attacchi gas? Ciacca, ti sento un pochino più distorto così. Vedete che tratturato, va, spegniamo. Beh, lo stesso, anche se ci dice non c'è un problema. Va benissimo alla grande, no? Non ti preoccupare, deve benissimo. Poi sto uscendo adesso. Adesso stai uscendo bene. Bene con quell'altra palestra, ma adesso bene, va bene. Va bene. Ok, gappa, va bene. Ok. Ia, eccomi. Sì, sono tra Guban, tu, cazzo. Cazzo, ma... Cioè, la gira mi abbaccia in stazionaria. Cioè, adesso è ancora di meno, Comunque io, su quel coso rap... mi segna le stazionarie a me, capito? Normale, Anto, normale che te le segni, lasciatelo in FWD, già va bene. Allora ti dirò, Anto, che con questa radio hai più picchi positivi, da 9:15 vai a 9:17-18, mentre con l'altra sei fissa a 9:15, quindi secondo me è meglio quella. E vabbè, ma chi dov'è pururu? Tu gigetto, chi sudorato attaccato? Sì, vabbè, lo attacchi quando magari c'è qualcuno fuori che non ti sente. Ma questo è un ottimo segnale. Se 9:18 modulato, cosa vuoi di più? Devo venire, se 9:20, ragionare se uguale all'altra radio. Questa radio mi è sempre piaciuta, te la dico la verità, ce l'ho 10 anni, ce l'ho. Non l'aggio mai tarda, non l'aggio. E questa è l'altro, non è Guido che vendono, tipo quello che vende grassi, sembra buono, cioè, questo è il 550, quello è sport, chi so chi fa, mi pare che fa 12 fatte, va, è una bomba, cioè finale mi stupisce, il MOSFET. Esce molto bene, tu, esce 15 con picchia 9.18, mentre con l'altra sei fisso 9.15 senza picchi e quando attacchi vai a 9.20, quindi non è che c'è un bassai alto, vedi tu? Già va bene questa per adesso. Oh, già va bene questa qua, dai. Mi sto usando l'alimentatore quello da 5 ampere, quello che mi ha dato una persona che lo conservo gelosamente, lo conservo come conservo l'altro. Tutti avanti con questo, come mi ascolti? Ti ascolto bene, sei a fondo scala. Ah, poi questo qua è il Milan. Midland, quello modificato. Ciao, vai, vai. Sì, 9.20 come segnale, quando parte vai a 9.30, andiamo e non arrivi manco lineare, così. Allora, questo qui è bello, dai, è che non lo uso io, lo so perché, mi dava ombre di stazionari, mi dava ombre di splatter, invece adesso ho trovato un filtro che non fa sentire più gli splatter, non sento più nulla, c'era, non lo sapevo. Già ce l'aveva letto Gigi Tricco, che un giorno ce l'aveva letto, già, io ti consiglio di usarla questa radio, ma usala veramente, c'è una bellissima modulazione, perché c'è un segnalone. E anche tu lo sai quanto la ricezione bella c'ha questa radio? Guarda, secondo me è una delle migliori ricezioni che c'ho. Ha una ricezione, a te ti sento come se fossi in casa, va perfetto, Antonio lo stesso. Lo so, bisogna usarle tutte, ogni tanto le faccio girare tutte quante, dai. Adesso mi manca il coso, nel 3009, coso l'ho usato, per poco, ma già l'ho usato, e il 3009 adesso manca, e basta, dai. Così almeno le ho usate tutte, e vabbè, la stazione base Intec che l'ho usata l'altro giorno. Yeah, io ti ripeto, ti consiglio di usare questa radio senza toccare niente da com'è adesso. Hai una modulazione splendida, il segnale modulato sul parlato è 9.30. Non arrivi a giù mai manco quando attacchi lineare così. La radio è veramente molto molto bella, vero Antonio? È una bomba, è qua. È una bomboletta. No, va bene, va bene. Cavolo, comunque l'altro giorno mi sono sentito io, una persona mi ha mandato il coso come arrivava a casa sua, minchia, non pensavo che pompasse così molto questa radio. Che pompa bene Anto, si sente benissimo, si sente benissimo. Ma ascolta, ecco, ce n'è adesso, perché non ho regolato. Sarà l'ufficio, cos'è, ecco, si sente appena appena, bellissimo. Si sente anche l'effetto elicottero leggero leggero, non lo toccare da così, va bene. Va bene, dai, lasciamo così allora. Ehi Antu, se vuoi ti registro anch'io, non c'è problema. Arrivi benissimo, con questo apparecchio che stai usando adesso è la bomboletta. Questo qua è 550, così è. 550 power. Quello che te lo ricordi già, avevo comprato la Tecnocomunicazione un po' di anni fa. Io l'avevo messo nella panda e tu te l'avevi portato a casa, già me lo ricordo. Io ce l'avevo nella panda, non ti ricordi che avevo fatto il buco nel tettuccio di nascosto? me lo ma ce l'hai avuto pure tu questo apparecchio? Allora. L'hai dato? Dato, no, non mi ricordo a chi l'ho dato. Beh, vabbè, si fanno degli sbagli nella vita. Esce un bel bene, a saperlo che ci va così bene. Bomba il apparecchio. Non so se tu avevi preso la versione. La versione è quella che. Quella come c'ho io. Questa. Questo qua è un po' particolare. Allora bisogna spegnere l'apparecchio. Questo diventa anche normale. Schiacci il tasto rosso. Schiacci, riaccendi l'apparecchio, lampeggia, ta-ta, e li metti i canali che vuoi, capito? Questo io adesso l'ho aperto, va fino a oltre il 45 di canali di su, capito? E se voglio faccio un'altra programmazione e vado anche giù, vado. Già lo so, sì, è così era. Mi ricordo che da Stintino arrivavo 9.5 a Sassari dalla Panda, però anche nella Panda ci avevo messo così. Veramente già? Yeah, con la Panda ce l'avevo, era andato da Natalino di nascosto e siamo andati in campagna e abbiamo fatto il buco nello tettuccio senza... Quando l'ha visto mia moglie mi ha detto: cosa ci fa questa cosa, cos'è questa roba? E io la cosa è... non mi dire che mi hai piantato l'antenna della macchina mia. Non mi ricordo, non mi raccontate. Però era brutta, era bellina anche come antenna. Era quella che c'aveva la farfalla, che è come quella che c'aveva Antonio, ce l'aveva sulla macchina. Sì, io non ricordo, era una prima macchina, l'avevi un po' camuffata, c'era l'imperiale, ma ce ne aveva ancora una testa. Stava bene, era bellina quella antenna, c'aveva la molla, era bellina quella antenna, la va bene. Era tipo quella che avevi tu, però era di un'altra casa, non me lo ricordo di chi, se era... della Lemo, di che casa era, e andava bene, pompava quell'antenna, c'avevo quel 550, 747 con l'antenna lì, pompava a volte, da sentire 95 mi hanno sentito, dove c'è il cimitero, siamo andati a fare un picnic lì, no, un giorno, con gli amici e cose, e io mi sono seduto in macchina mentre loro stavano parlando, acceso il baracchino, che è l'OV5 a Sassi. Senti tu, io il giorno che eri a Santa Giusta, lì a Nulvi, no? Ti ricordo che c'era Fontana lì, lì con la Opel, e arrivavi benissimo a casa. La Santa Giusta quando andavamo a Rostire, che bello. Poi abbiamo trovato un parco migliore ancora, che era Sant'Antonio a Uri. E lì c'era anche la tettuia, se pioveva te ne potevi andare sotto la tettuia, una tettuia aperta che potevi arrostire tutto. Già, una volta a Guattiglia d'Ureva con un collega di Nurvi abbiamo fatto una pasquetta lì noi a Santa Giusta. Ci siamo entrati dentro la chiesetta. C'è la chiesa, sì, è vero. Lì c'è la chiesa. Ma i cinghiali hanno fatto un casino. L'ultima volta che siamo andati avevano preso, deve se non ritiravano la mondezza spesso. Hanno sparpagliato tutta la mondezza in giro. Siamo dovuti stare 3 ore per pulire, per... no, non ci veniamo più qua. Andiamo da un'altra parte, anche più vicino, a Uri era. E vabbè, altri tempi, prima gli erano amici andare a Rostire a fare, sempre in cioffe eravamo, più di 20 persone andavamo con 4, 5, 6 macchine, tutti canti in greppa, quando tutti i miliari già succiavano. Io lo stesso, lavoravo a Nulvi, eravamo sempre per le campagne, ci organizzavamo con mio collega di Nulvi. Facevamo tutte quelle zone bellissime, molto molto belle. Siamo andati anche su noi a dove c'è la, il ripetitore in alto lì, a Montentosio, capito? E vabbè, bei tempi, ha detto bene, allora si può andare giù, ma non capisce più, per carità di Dio. Gianfranco, vuoi riprendere? Sì, ne approfitto per chiudere, che ho finito i lavori e adesso me ne vado anche a mangiare, come ha fatto. Buona serata, alle prossime. Ciao, ci sentiamo. Claudio, lo sai che l'ho portata la macchina alla Fiat a fargli vedere quell'affare? Cosa ti hanno detto? No, che non erano loro, che non era possibile. Ho detto, chi l'ha fatto? La Fiat allora. Secondo me non è così. Secondo me siete stati voi, perché la Fiat queste cose non penso che le faccia. Qua la macchina è entrata solo qua, la macchina. Avete smontato voi questa parte qua. Perché io sono andato da Gavino a cambiare il filtro del gas e ha dovuto smontare quel pezzo. Te lo dico chiaro e tondo. Quando ha smontato quel pezzo, davanti a me l'ha smontato. Non è a dire che l'ha rotto lui a cosa. Mi ha detto, guarda già, te lo sfasciato il coprimotore, diciamo, quello in plastica. Sai cosa ha fatto? Ho detto, vabbè, facciamo una cosa, non siete stati voi, vabbè che me lo dice che siamo stati noi, lei può dire quello che vuole, così mi ha detto. Ah, posso dire quello che vuole, allora ne dico un'altra di cosa, gli ho detto, lo lasci così, non c'è problema, voi avete perso un cliente, è sceso il capo officina, mi dica, gliel'ho fatto vedere, è salito su, deve essere che ha guardato chi l'aveva fatta la macchina, poi è salito su, poi è ritornato e gli ho detto, ordiniamo il pezzo, sicuramente l'ha ammesso che l'ha rotto quello lì, però non ha avuto il coraggio di dire, mi scusi, guardi, è stato così, aveva ragione di niente, ordinateli il pezzo, dopo che è salito sull'officina a chiedere chi l'aveva rotto. Sì, fanno sempre così, comunque te lo consiglio. Inizialmente anche io, quando la macchina era più nuova, la portavo all'auto A, perché è Fiat Alfa Romeo. Poi non ci sono più andato, capito? vai dal tuo meccanico di fiducia, vai da Franco, che è molto molto bravo. Io mi sono attaccato a Franco Goffredo, me lo fa Franco Goffredo, pago qualcosa in più perché giustamente sono più cari sicuramente, però sono dei grandi professionisti, sia Franco quello dove c'è la cellulate praticamente, non mi ricordo come si chiama di cognome, e Franco Goffredo, sono dei grandi professionisti sulla Fiat e Alfa Romeo, quindi io ti consiglio di andare da loro, ma non la fa ancora l'auto A. Infatti faccio così, dopo che mi fanno qualcosa non ci torno più. Allora, Franco Russo, siamo amici da ragazzini, non ti dico altro, lui abitava lì nel discesole che c'è per andare in Viale Sicilia, per intenderci, ci aveva l'officina lì, il padre lo conoscevo tutti, lo zio era fabbro e c'aveva il coso di fabbro lì proprio in Viale Sicilia, li conosco tutti quanti, bene, Franco lo conosco bene, capito? Io mi servivo da loro quando ancora ce l'avevano in Viale Sicilia, anzi, quando ce l'avevano prima nel discesone e poi l'hanno trasferito in Viale Sicilia dove c'era lì, dove c'era la polizia, e poi si sono trasferiti lì. Io sono stato sempre loro, sì, mi sono sempre servito da loro, sono stato sempre loro cliente. Però ci aveva una cosa, se ti dovevano fare un lavoro che si spendeva, ti telefonavano e ti dicevano, già, guarda, c'è questo problema, ci vogliono 500.000 lire, perché allora c'era un lì. Lo facciamo oppure cosa fai? E io, no, fatelo. Gli davo il via e loro lo facevano, però quando usciva da lì la macchina non ti dava più problemi. Invece, cosa ride tanto di Fiat? Una vita e mezzo molto di Fiat, Alfa Romeo. Se ben ti ricordi facevano la macchina della polizia. Erano tutte Fiat perché ci avevano le Fiat. Fiat e Alfa Romeo. Capito? Quindi, no, io l'ho conosciuto talmente mio genero, perché lui prima della BMW aveva la stessa Alfa, si serviva lì. Quando io ho preso l'Alfa, che non ne avevo mai avuto, mi ha detto, signor qua, si fida di me, allora questa macchina deve entrare solo da Franco Rossello, se vuole che le duri. E infatti, grazie a Dio. Sì, la stessa cosa ha fatto Franco con me, quando l'ho portato a fare la distribuzione, mi ha detto, me la lasci, faccio il preventivo, per vedere se ci vuole solo la cinghia, è un costo, se ci vogliono anche altre cose, un altro costo, eccetera. Mi ha telefonato, mi ha detto quanto ci vuole, poi io gli ho dato ok. Capito? Una persona molto molto seria. Ma anche l'altro Franco, quello dove si serve Giulio, per capirci, non mi ricordo il cognome, anche lui è una bravissima persona. No, tu lascio degli batticioni, capito? Perché a me una volta, sai che cosa mi hanno fatto? Quando andavo lì inizialmente, perché la macchina appunto l'avevo presa lì, era un aziendale, e in pratica mi hanno fatto pagare l'olio che però non hanno sostituito, capito? Non l'hanno sostituito, perché io poi sono andato proprio la sera stesso, perché mi ha detto, fra un pochino faccia trabocco, ho detto, ma non me lo vuol dire, l'olio era nero, come gliel'ho portato, nero me l'hanno tornato, di solito l'olio quando te lo cambi dalla mattina alla sera non diventa nero, capito? E quindi non me ne hanno cambiato, non mi sono più andato già, riprendi Anto. No, attenzione che il diesel dopo che fa un paio di chilometri diventa subito nero. Sì, Anto, ma io sono molto attento perché la mia macchina c'ha 324.000 km e se la mette in culo un bel di macchina. Motore nuovo, a prescindere che è nuova la macchina, perché l'ho fatta tutta, esternamente l'ho fatta fare quasi tutta, diciamo. Quasi tutta, capota, cofano nuovo, i davanti, tutti gli stemmi nuovi, ormai ho fatto un sacco di cose, l'interno è impeccabile, tutto in pelle, nuovo, la macchina è in perfetto stato, quindi la tengo molto bene, e il motore non c'ha niente, nulla, è perfetto, nonostante i chilometri che abbia, proprio perché la seguo tantissimo, però ti ripeto, allora tu sono pasticcioni, perché me l'ha detto gente che ci ha lavorato, sono pasticcioni già, quindi cambia e futtibini, che è tutto salute per la macchina, perché se tu porti la macchina da una parte e ti dicono gli ho fatto questo, non l'ho fatto, tutti i fili, magari cazzo rischi di fare danno. Oddio, la prima volta mi hanno rotto il cassettino, quello dove si mettono i documenti, c'era la molla e non aveva più ritorno. Me l'hanno detto, però la verità aperta, cioè, ormai guardi, smontando il cassettino, abbiamo fatto danno, le lo ordiniamo nuovo, mi hanno chiamato quando è arrivato e me l'hanno cambiato, la verità, quella volta sono stazionista, perché io ammetto che possono succedere queste cose tutto quanto in plastica, può succedere che qualcosa si possa rompere, no? Anche perché col calore del motore, solo che a me chi me l'ha smontato, Gavino, mi ha detto che lì, dopo i sei bulloni che ci sono da togliere, c'è un gommino che entra dentro il buco e vuole spinto col pollice per farlo uscire, se tu lo tiri così ti strappa tutto, perché ha una forza quel gommino per tenere proprio il coperchio oltre i bulloni, capito? Quindi loro l'hanno stracciato, sono andati a trattatura in chimica, non si sono accorti o non lo sapevano che c'era il gommino, hanno tirato e l'hanno spaccato, ma ha un bel taglio, gliel'ho fatto vedere, caspita come l'ha fatto a accorgersene che dietro, e io me ne sono accorto perché stavo pulendo il pezzo, invece non ne volevo dire che me l'aveva detto lui, no? Sì, anche già lo so come ti è fatto, anche sono ignorante, so. Bisogna stare attenti togliendo quel cazzo di coso, perché un giorno una persona l'ha spaccato là, a chi sono ignorante, so. Qual è il copremotore, già quello che copre il motore, quello in plastica, come c'è io, che c'era scritta, quello lì? Esatto, quello che copre il tappo delle punterie, per intenderci, quello in plastica, però non quello in ferro. Sì, sì, quello nero c'è un copremotore grande, dove c'era scritta, alla Foromeo, gente dice, c'è quello lì, grande, grande. Quello lì che copre, a me mi copre quasi tutto il motore. Sì, sì, quello lì c'ha degli incassi e c'ha dei gommini, che quei gommini servono per non farlo vibrare quando la macchina è in moto. Se tu rompi quei gommini, il tappo vibra ed è un casino, capito? Molti ci mettono un cacciavite dentro, ci mettono un cacciavite fine, sta e apre. Molti lo fanno così, molti. Sì, sì. E probabilmente o non si sono accorti, sono andati a faccia dura, erano spaccato, capito? Poi la macchina era nuova, quando mi hanno dicendo, mi sta parlando addirittura di maggio, quando ha fatto il tagliando, sì, ma io me ne sono accorto adesso perché il motore sono andato adesso a pulirlo, mica dicevo che ho cambiato il filtro dall'altra parte, se ho obbediziano, allora è passata la garanzia. Perché anche il filtro del gas loro ti devono cambiare in garanzia? No, non in garanzia, ma praticamente se tu cambi qualche pezzo poi la garanzia decade, capito? Non puoi riportarla da altre parti la macchina. Sì, ragazzi, per carità. E così hanno fatto a me. Il primo anno che avevo un anno di garanzia, perché la mia era aziendale, capito? Mi hanno fatto così. Poi io mi sono accorto, perché ce ne siamo accorti io e mio genero, e non voglio più portarla. Infatti mi hanno chiamato una volta, che scadeva, non so che cosa, ho detto sì sì, ve la porto, sono incasinato per lavoro, la macchina mi serve, ve la porto, invece non sono mai andato, non sono mai andato, andavo sempre a Franco Ruffetto. Era l'officina, Via Sicilia, no? No, il mio portatore, c'era il capo officina di Siranos, no? Dove c'era Siranos, lì alla Faromeo, Via del Portatore, sempre lì. Sì, sì, ho capito, vabbè. Sono Franco di società, Penso di sì, ci sia qualche altro con lui, ma io sono andato da poco, per vedere se ci aveva, sai, lì ancora pizzi al Faromeo ce n'è, nonostante sia stato il fallimento, eccetera, per vedere quelle borchie già, e mi ha detto, guarda qua, volentieri se c'era te l'avrei regalate, mi hanno portato via tutto, non ce n'è più pizzi di cambio al Faromeo, se no te l'avrei regalati. E ho visto che sono in due, che poi c'è la moglie di Franco in ufficio, ma due che dirigono dentro, capito? Franco e un altro. Uno esce spesso a provare le macchine, Franco rimane molto spesso lì, e poi ci sono quattro dipendenti. C'è anche Federico, quello che lavorava, adesso non so se ci sia ancora, c'era Federico, quello che lavorava alla Opel a Porto Torres, che è di Porto Torres. Esatto, sì, non sapevo come si chiamava, ma c'è uno di Porto Torres, sì. Federico è bravo quel ragazzo, quello ci sa fare. Era socio, prima era Troncia e... non me lo ricordo l'altro chi era. Erano in società, insomma, in società con quello che ci ha portato. Sì, l'ho visto che c'è uno di Porto Tese, però ci siamo anche salutati, però non so come si chiami già, se mi ha detto che si chiama Federico. Va bene così. Chi sei rimasto qua? Io, tu e Antonio. Marco, quando stai? Ingozzando ti stai? Quello è sposato con mia nipote, quello del Porto Tese. Ciao, sto scendendo giù, ci sentiamo, ciao. Ciao, Marco giù, cazzo, questa è entrata veloce. Sì, perché c'è mio genero giù, no, cosa lo lascio, da solo lo lascio. Capita. Per cui è meglio scendere, dai, sono appena arrivati. Stavo dicendo, quel Federico meccanico, quello è sposato con una mia nipote e abita a Porto Torres. Ok, ciao a tutti, chiudo, ciao. Ah, ciao Giulio. Ciao Giulio, ciao. Vai a tu. Ciao. Vabbè, facciamo. E si è sceso giù a girare il sugo di nuovo. E da Vittorio si muove a preparare a mangiare. Lo mio, lavi. E lo avete inteso, sì. Allora, lavatrice. Niente, nord di Spagna, della Scusia, l'isola della Sardegna, Italia, avanti. Mi stavate chiamando, che stavo telefonando, stavo. No, ecco, pensavo che eri sceso a fare il sugo. No, oggi mi ha giuginato la pizza, giugiamato a coso, a... all'amico, quanto si chiama? Ma, a video. Tu che c'è la Spagna, chiama. Avanti, spagnolita! Aspetta, vado a bere, Gianni. Chiedo mio hermano che va a scusiare la Sardegna adelante. Era una propagazione... di chi si impressa, brutto. E di chi ti apre, che ti apre. Risposto, e poi a chi? È arrivato un segnale, avanti, chi è? Tempi dei maiali si chiamavano Suspiri. Chi c'è, Cuglione, sempre Santiago Setta, è sempre il solito. Da arrivi a te, già. E sette, sempre. Sì, già lo so io, guarda. Attenzione, chi c'è sottofondo, chi sta parlando, avanti. Attenzione, l'amico che parla di sottofondo, chi è, avanti. Prendi anche tu. Senti questi che stanno parlando sotto. Via, e beh. Piazza, cosa ti ho chiesto? Ho detto, li senti questi che stanno parlando sotto? Qualcuno lo sento. Cioè, ma ogni tanto arrivi, non arrivi. Ma chi ha fatto il brutto, già lo sappiamo, care. Non ti preoccupare. C'è per quello che ci aveva messo la pizza in tasca. Sì, bassa valle, e cosa vuoi fare? Yeah. Andave, e vabbè, Antu. Tutto bene, come sta arrivando a casa tua con questa radio che era ferma un secolo? Una bomba, sei a fondo scala, sì, una bomba, sì. Ha ordinato le pizze, ci siamo una buona, ve l'ha dispiegato. Che radio è questa già? Questo qua è il 48. No, poi, il 48 c'è una bomba radio di, tu sarà più spesso, già, te lo sto dicendo, sei 9.25 con picchia 9.30. Allucinante, bella poi la radio forte, bella chiara. Ma Marco Conte non c'è più. È un Milan. Cor Condor non c'è più. Chi? Sta digerendo. Ehi, avanti Marco, capo, sei in parcheggio, sì. No, tranquilli, tanto io adesso mi rilascio piano piano, mi faccio venire l'abbacchio, Claudio, la biocco. Oh, non so che dialetto sia biocco, non credo che sia roba sarda almeno. No, mi tutti lusci, sarà sassarese, abbioccato di sì. Qualcuno dice l'abbacchio. Vabbè, oggi festa diavoli non ce n'è, quindi non ti addormentare. Tanto mi ha fatto ridica. Sì, vedi i vizzini, vedi. La vesta di Aulin, sì, ha genito, la vesta di occhi. Coraggio, essendo genitore, mandare magari i bambini in giro a chiedere caramelle e dolcetti toccati da altre persone. C'è anche se la buccia, che ne so, la caramella, lo sai come fanno i bambini, no? Toccano la buccia della caramella, la scartano, toccano la caramella con le mani, se la mettono in bocca e se la toccata un positivo è fatto il danno a me. Ancora non riescono a entrare nell'ottica dell'idea che non si può più fare quello che facevano prima, né i bambini né i grandi, cosa vuoi dire? Vai tu a spaccare la testa. A parte questa cosa di idolatrare le feste americane, proprio servi degli americani, infatti prima ho fatto la battuta per quello, perché non festeggiate anche il 4 luglio, no? La festa dell'indipendenza americana. Io mai festeggiate, poi queste cose sono feste pagane, capito? Non vanno d'accordo con la Chiesa, col mondo cattolico, non vanno d'accordo. Sono tutte feste di streghe, di cose, di non lo so. Quello va d'accordo con te che sono stregone. No, io sono segone, è diverso. Io ogni tanto tocca cambiare il radio, guarda, adesso sono con LinkedIn. Va bene, più bassa però del 48. Sì, questa esce con 3 fatti, è un grido. È omologata, è omolocane questa. E vabbè, già va bene lo stesso però, dai. Io la grande voglia. Sì, se ne fa qualche lavoretto che questa qua pompa, abbastanza arrivata. E pompa di più, pompa di più. Ma non me ne futti nulla perché c'è anche un alimentatore interno. E se tu li aumenti il watt non vira a base. E quindi la lascio così come dalla casa. In origine. No, lascia la fare così che va bene. Cosa di non futti. No, va bene, cosa fai? L'unica cosa che le ho fatte è messe le luci blu con Luca. Abbiamo messo le luci blu ed è una bomboletta, bellissima. Beh, da te, che lo vedi? Ti faccio tutto bianco, addirittura da 140 le ho messo il LED bianco. Vabbè, 440 lo stesso ce l'ha, perché se si brucia la lampadina è un casino. E quindi non l'ho fatta io, questa non so chi l'ha fatta, non ce l'ha fatta Fabrizio, non so. Forse l'ho fatta già lui a Roberto, non so. Nel 140 ho portato la lampadina sua e gli ho messo il LED bianco, tutto bianco, bianco. Infatti sai quanto viene bello con gli strumenti blu? No, non ci vedo un accidente. E poi quelle lampadine dove le trovi? Sono quelle a siluro, a saldare, dove le trovi blu? Su internet! Blu, così a siluro? Le trovi tu come le vuoi, LED più piccoli che ci stanno lì dove c'è quelle a siluro. Cioè, qua non c'è da smontare niente, qua togli il tappo dello strumento, proprio lo sfili, e sotto c'è la lampadina, capito? Se tu la metti rotonda non la fa tutta lunga la luce, e quindi ti rimane la luce solo al centro, è brutta. Queste sono originali lampadine, ma se lo lascio così, ma cosa? Magari si affutti, va bene. L'importante è che ci vuole e siano tutti ok. Marcolino Condor, hai capito? Lui mangia, poi si rilascia, si fa delle scorreggine, eh? Hai visto Marco ogni serata che ho fatto? Carino Anto, l'ambiente, molto carino. Ma tu facevi il DJ in alto praticamente. Io ero da su che chiamavo un po' con la regia, che capita da 10 metri. Capito? E quella lì come sono entrati gli ospiti, gli ho messo quella lì, era la musica che poi continua. La musica di quell'evento, dai. Ma poi, Giulia. Sì, anche il piano di su hai, bello, bello. Mi piacciono anche quelle, come è fatto sopra il soffitto, con quelle belle, quelle travi in legno, molto carino. Però le radio ce li ho qua, io le radio. Ce le sopra le radio, lì c'è piano giorno e piano notte, capito? È bellina, molto accogliente. Molto accogliente. Ma noi già ci va bene, siamo contenti qua. Ma l'affitto è un po', però non mi interessa, tanto non ne abbiamo trovato, anzi noi ce la fa così, perché gli altri fate pagare di più. Quanto paghi Antonio per sapere, più o meno? 3,80. Minchia, quanti metri quadri? Non me lo ricordo quanti metri quadri è, c'è la cucina giù. Quanti metri quadri è essa? Non me la mento, va. E vabbè, non è grande, però a noi va bene, anzi questo è l'appartamento più grande, l'altra che va a fianco è ancora più minore. Ascolta, giù c'è il salone, la cucina, il bagno dove è, giù o su? Giù il bagno. Ah, va bene, sopra praticamente solo la camera da letto c'è. La camera da letto. Sì, già va bene, per due, dai. Per due già va bene, Antonio, allora ci arriva. Caruccia, maledetti, Carucci sono maledetti. Vabbè, però pazienza, vai doppio, bella la radio, sì, ma me l'avevi già mandata tutta blu, bella. Ma già io se faccio il DAC così non ci vedo un cazzo. No, il DAC no, il DAC deve rimanere puro. Infatti è puro, c'erano sue lampadine originali, c'erano fulminate due, una del rosmetro e l'altra del vattimetro, praticamente poi non è un vattimetro, è l'accordatore di dai, l'accordatore di placca delle valvole, quando c'è una mia trasmissione, poi c'è il tastino che tiri su e ti dà la potenza, e quei due c'erano fulminati, ero disperato perché non trovavo quella siluro, invece poi sono andato a Fusaro e me ne ha procurati Antonello 5, capito? Infatti ne ho ancora due di scorta, sono siluro a salvare, togli il tappo e ci sono le lamelline e vanno puntate lì dentro, capito? Claudio, ho ricevuto il file. Sì, io. Hai visto come l'ho fatto? Sì, sì, molto bella. Cappagappa. Beh, vabbè, comunque già va, dai, già una radio che va, dove va. Anche troppo ne adesso, lui. Non so come cosa fa mentre si radio. Mi tocca sempre farle girare, farle scaldare un po', ogni tanto. E io, perché ho preso quella decisione. Io due le sto dando, una base VU e una HF che non uso, capito? Poi ti ripeto, vedrò cosa fare. Se prenderne magari un'altra di ultima generazione, ma così non me ne faccio niente. Sono sempre spente, una l'ho già data. Una VU base l'ho data. Abbiamo fatto un cambio con 140. Però me l'ho tolta a mezzo piedi, capito? Anche se non me ne faccio niente il 140, però ce l'ho, c'ho il 30, il 440 e il 140. Ogni tanto lo uso, però va bene, ma quella la ne avevo. Ne avevo, ne ho quattro basi VU, così non ne vai. A tenere spente. Vai, Condo, a te compri una Macocondo. Ma stai dicendo? A Concamuro de Bongai. Oia, oia. Madonna, mi stai facendo lo smittere. Ho trovato sull'antenna di 6 metri. Minchia, deve essere che ti vedo ancora di più, sei sopra il DB, la mazza di Nevaria prima di sul 6, sul 60, adesso sei oltre la scala, on air. Dove va per mezzo? X40 della Polo, assicurati tu, non so dove manco l'altro, come filo, lo filo tra il microfono, esce la tannata, bisogna che scendo giù adesso la Giovanna, mi prendo il salelta e lo piazzo qua, per forza di cose, l'unica cosa è quella. Antonè, ma hai problemi di alimentatore? Ti serve un alimentatore? Ma ce l'ho l'alimentatore, ho dato una marina l'altro giorno, ho dato due portate della Inter, che figurati, ho dato l'alimentatore da 50 ampere, no, ce l'ho l'alimentatore da 30, non è quello, non è roba di alimentatore, è problema di Lala, 87, se ci sono due fili che toccano il microfono va in tilt, capito? Adesso scendo giù, prendo il salento, lo piazzo qua perché c'è bene, è perfetto, quindi non c'è nessun bisogno, quindi ci mancherebbe, io ho alimentato grazie a Dio. Sto usando quello vecchio lì, con questo qua, alternata non ce l'è, quindi si è andato bene, invece nel VU sto usando quello da 30 ampere, quello cinese. No, già va bene. Avanti break, che c'è stato un break tra un passaggio e l'altro, avanti break, riprendi già. Stavo mettendo a posto il telefono, così è. Antonio già non risolve il problema di quella fatica, però esce anche con pochi fatti, cosa di lì vai Antonio? Lo trattano di Trento i cinesi per chiamarsi una cosa, Cicucci, anzi la sta lì, e la ragazza ce l'hanno chiamato via radio, e c'è sempre il tipo con la radio accesa che ascolta tutto quello che dice. 8-6-2-2-125 la frequenza. Intanto ma fa vedere il cinese cosa li comprendi. Solo. Se prendono la portata per l'antenna, non è che la prendono per per il microfono, per l'antenna, si mettono a parlare con qualcosa. In pratica con la mano, capito? L'antenna, anche poi premo i pulsanti precedenti dalla versione, gli ho fatto uno di questi giorni deve essere male in mano con l'antenna. No, non c'è problema, mi ha detto. Abbiamo un'antenna di riserva. Ah, fa meglio così, io. Lì da muraglia mi sto parlando. L'antenna di Antonio c'hanno. Le antenne di Antonio c'hanno. Sono la verità, c'hanno, mi ha detto che c'hanno le antenne portatili per il PMR. Cioè per il PMR, per il VU, la verità. E basta, per quei portatili che usa gli 888 più che altro. Dice che c'hanno le riserve, non so se su Paglia o di che marca sono. La verità non lo so. Comunque ce li hanno, mi ha detto che ce li hanno, ne hanno parecchi di quelle antenne. Non li ho viste ma ce li hanno. Ma io ho visto di nuovo in VHF ci sono i tranvieri, no, poi io non parlavo, adesso sono, vabbè, ci sono, intanto la metto con la frequenza, ascoltare, la Fredina era uno che si è incastrato lì, una via, non ho capito il cazzo di via, I tranvieri sono 157-775 la frequenza, in questo ponte, poi vabbè, uscita ponte 165 qualcosa mi sembra che 16, adesso non ricordo più, comunque sia è passato parecchio tempo, comunque su 157 775 li ascolti i tranvieri, c'hanno il Motorola come apparati. Ma in V trasmette? Già in V, sì. Già in VHF 162 375. L'uscita, vabbè, il ponte non fa niente. Metti a 162-375 li ascolti. Parlano sempre, stanno sempre parlando. Chiama il centro lì, la TP, e loro rispondono, ho capito. Vabbè. Ehi, Antone. Ho messo la mappa dove c'erano le direttive. Ho usato la qualificazione delle direttive, che è molto robusta. Sono senza quella muro, sono altri tre elementi da 2 metri, 2, 4, 6. L'ho portata tutta alta, è l'elemento, quello attaccato al muro, che è la 2 pollici, quello è favoloso. Gli altri anche sono nuovi, sono belli zingati, nuovi. L'ho messa lì, almeno è tranquilla, sicura e non ingaggi. Già andava bene anche l'ovvero, però era a 2 metri di altezza. Ne avevo altri pari da mettere lì, erano tutti innestati di là e quindi ho usato quella. E poi c'era la montava prima, ho messo la X50. Tanto per quello che devo usarla. Ecco per me. Ehi Anto. Sto bene. Io ho controllato l'X700, c'avevo il cavo cazzo che era in corto. In pratica c'era un buco, era tutto verde, ho cambiato il cavo, adesso si sta tutti in UHF con l'X300 ed è perfetta, è messa anche l'attino al centro del trattino, quindi quando voglio adesso la posso mettere anche fuori e funziona ed è perfetta. Ehi, andate, già va bene, no, io ho fatto qua con i due Luca, abbiamo fatto una pulizia su allucinante. Tutti i cavi tolti, tutta roba che non serviva, i cavi dell'alimentatore del rotore, di tutto, anche un guardo di tutto, tutto tolto, buttato via tutto, capito? Tolto tutto, adesso è tutto in ordine, bello in ordine, sono contentissimo, almeno non va in mondezza, e sono anche più sicuro per i temporali e per tutto, capito? Ancora devono venire a prendersi il master con la gabbia, che l'ho regalato a un amico, le serve, ma tu deve passare con l'imperiale e portarsela via, infatti la gabbia della gente l'ha fatto, passa a prenderla perché la tolgo io da lì, perché non voglio appoggiare niente sul tetto, capito? Siccome bisogna scendere a piedi, quella che non ci sta in ascensore, rende pesanti quel tubo, allora viene lui e se lo prende, io forse non da nessuno. Va bene, se la vuoi, se la fai, la diceva quello, non è che devi portare giù tutto, tanto la gli sta regalando, non è che la stai vendendo, quindi a un certo punto va bene così, basta e avanza. Questo è il casino che ho dovuto fare da solo, mi ha ballato, ho comprato il cartone con la rotola da Gianni via Montello, ho imballato tutte le direttive, ho consumato 3 rotoli di nastro, perché poi una volta imballato ho puntato l'imballo, l'ho tutto avvolto, proprio l'ho fatto tutto marrone, pari a un bauli, e l'ascensore non ci stava perché 2,70 m, capito? 2,70 m smontatemi, compreso anche il boom, perché il boom è da 2 metri, 2,70 più 2,70 smontato, ho fatto tutto a 2,70 e ho dovuto scendere a piedi da solo. Figurati tu, se ne rivaro la master a tubo pieno, innocenti da 2 pollici, avanti un mese, scalinato, con la gabbia attaccata, c'è gabbia e cuscinetto attaccato, tutto attaccato, lasciato, l'altro viene a prenderselo, viene a prendertelo, anche io non te ne busto, oh, altro mi fatti capire. Va bene, va bene. Gianni. Sì, a Mission Key. Te l'hai memorizzata quella frequenza, 162.375. Fatto, fatto. Se lo lasci acceso te lo metti, senti i tranvieri che parlano. Ordine in servizio, comunicazione in servizio. Li sento, soprattutto quando sono a casa la mattina, lascio sempre acceso e parlano un bel. L'altro giorno c'era. Il giorno che c'era quella rissa lì, quella rissa, quello stronzo lì su Vecchio, l'hanno denunciato, lì stanno denunciati, l'ho già pubblico ufficiale. I tranvieri sono pubblici ufficiali, capito? L'hanno denunciato, per minacce, non so che cosa. Lì dove si fermano in via Tavolare. C'era lui che stava sempre parlando, guarda, cosa devo fare, mandate il 113, mandate qui, mandate là, infatti poi sono arrivati i carabinieri. Ho visto il filmato, Claudio, che lui aveva l'ombrello col vecchio, ma dice che è mezzo mancante. Sì, recidivo, la fratellone, era un pensionato, ma quello che guidava il tram, quello c'era una palestra, quello fa fitbox, così si chiama. Visto i cubicoli bene, quello lì, ha fatto il signore, ma non te ne vai, vedi che se ti metto la mano addosso, cazzo ti faccio a pezzi, vai, se devi andare, vai. E lui continuava a minacciare, ne ha detto tutti i colori, ha fatto il signore quello, infatti è uscito anche la Nuova Sardegna, se ti muovi mani in alto, guai, o vado a pezzi, signor Greciano, capito, amico di mio... praticamente si conosce con mio genero, non è che escono assieme, però lo conosce, che lui andava nella palestra sua, perciò quello lì, e c'era un bel dibattito tra la sede, lui, capito, già parlavo comunque, già si va di niente in lì, no, però, forse sono arrivate le pizze, che lo so, altro 7.25, stiamo già andando a nessuna parte, infine ho detto poco fa che era Gurovabba, la mamma in giro, vado contento, già dormito, ma lo avevo da qua, già dormito, ecco lì, già che l'ha ammaiato ti sei. Praticamente sì, dai. Invece che commuto a 140 la facciamo andare un pochino, va. Commuta, commuta, bisogna farla girare la radio, porca miseria. Anzi, è una rottura di palle, più ne hai più ne devi far girare, se no star ferme si inchiodano. Quindi non si inchiodano, già va bene. Adesso la facciamo andare un po', vai. L'ho usato io un pochino e poi basta. Già va bene. Un attimo, dai, correti per noi, è arrivata gente, ci sentiamo. Ehi, già, ciao, buon fine serata, buon tutto alle prossime. Ciao Gianni, dai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo. Se devi riposare, riposa Marco, già sono qua, io faccio una carrellata, adesso c'è qualcuno sul 23. Ehi, aspetta che adesso mi prendo anche il bicchierino di amaro, così mi dà la botta finale. Dai, buon proseguimento Claudio. Sentiamo, Bombolo, Gianfranco, mi ero sentato, credo che siano andati via tutti alla fine. Ok, dai, ciao a tutti, buona serata. Marco. Anche tu ci sei, Antonè. E cos'era prima quel rumore di alternata terrificante? Microfono, adesso scendo giù la Giovanna, mi richiedo, Isabella, dammi la porta qua su. Così uso quello, domani mattina mi sistemo il microfono suo dell'autostette, se vedete se c'è qualche filo sta toccando, senz'altro. Intanto Giovanna c'ha i palatini staccati, tutti e tre, perché sta sistemando il garage, anche il terrazzino, per portarci un po' di roba. Ehi, credevo fosse l'alimentatore Antonetti, tipo quelli cinesi, quelli per computer che si usano, che a me non piacciono niente, con questa morsettiera con i fili attaccati lì, pucci, non mi ispirano per niente. Poi non hanno strumentazione, non hanno un cacchio, non hanno. Ma già funzionano bene, grazie a Dio, non c'è problema. Il problema è che è rumoroso, più che altro. Quando usavo il microfono Salerta si sente un bel capito. E per quello sembra che c'è una ventola di computer da agganciare. Però funzionano bene, grazie a Dio. Vabbè, io è che sono abituato che gli apparecchi hanno tutte le banane rosse e nere, no? Quindi con gli alimentatori classici pronti per radiofrequenza, no? Per radio, dai, generici, vanno più che bene. A me questi fili, questi morsettini con i fili volanti non mi ispirano. Poi vabbè, costano poco, però va bene. Antone, io qua mi assento, chiudo, che tanto è. Adesso mi preparo per la TV, ok? Allora, ci sentiamo dopo, allora. Facendo un attimino la giovane, adesso facendo i contatti un amico mio. Ci voglio io, che deve provarlo. E poi già rientro subito. Così mi tiro il microfono, Salerta. Almeno uso quello. La 27, posso dire, di questa macchina qua, delle Delta X Pro, sto usando quello adesso, quella MFM omologata. Già va bene, ottimo per la truppa, va benissimo, la grande. Io vado dopo tu vola, ma dove faccio niente, c'è lo scatto, faccio tutto. Lo vendo così com'è, tanto non faccio niente, io ho parlato, avevo la voce, a riempirmi la casa di macchina. Vabbè, 10 minuti di quelli che già dentro fa poco, là. Vai, già siamo qua, non c'è problema, sto ascoltando anche in un altro canale. Sono rientrato, Ehi, a bombolo, va bene, no, io come un tratto mi farò andare un po' 140, che mi ascolto lo stesso. Ah, voglio attaccare, se non ti accorgi, devo lavare tutto. Allora, va bene, giusto per farlo andare un po'. Oh, vabbè, questo è un caterpillar, è un muretto, No, già può rimanere vado, è l'altro che non può rimanere vado. Tu vieno di, cioè, non so cosa mi ha detto che avesse. Ma ho capito per cosa fanno questi gatti di radio strane. 440 lo devi usare, se lo tieni molto spento fa difetti, capito? Infatti io ce l'ho sempre acceso, mentre il 140 e 430 no. Quello non fa nessun difetto, capito? E vabbè, per quello me l'ho preso, ho detto così ce l'ho di scorta, non so mai se rimango a piedi, ma grazie a Dio già sta andando tutto bene. E alcuni parecchi vecchi me l'aveva fatto, lasciamo fermo per un po'. E a me non è andato via più bene. C'è un problema lo Smith, un sacco di cazzate. No, questo tanto è nuovo, te l'ho già detto, non aveva manco il decimale, glielo ho messo io. Perché di solito è 27.025.00, questo ci aveva uno zero solo. Siccome so come si fa, gli ho apparso l'ultimo decimale e poi l'ho memorizzato dal canale 1 al canale 30, perché c'ho 30 memorie, e poi ce ne ha 100 di memoria, e lì gli ho messo il canale 45, capito? Come faccio sempre, a tutte le 140 e 80 ho sempre fatto così. E niente, va bene, è nuovo, funziona benissimo alla grande, non c'è problema. Cavolo, ma cos'è un apparecchio che non è stato mai utilizzato, com'è? No, non è mai stato utilizzato in AM, lo usavano solo in banda laterale, capito? Solo in banda laterale, era completamente chiuso, anche l'LC era chiuso, il trimerino, la resistenza variabile dietro lo slider era zero, l'ho aperta io, l'ho fatta così per la 27, perché io non è che lo uso in banda laterale. l'apparecchio che usavano così, dai. No, va bene, va bene. Sono radio telefoni, ho avuto tante di queste, no. Non hanno mai difettato di nulla, non hanno fatto alcune cosettine, infatti li ho lasciati come erano, con tanta vara, perché se la tiri ne va anche più di 100, sono lasciato 80, ho dato solo un po' più di Mickey Game e basta. Infatti non sto usando manco l'MC60, sto usando l'SM20 della Icon. È buono, cavolo. A pompa gli abbiamo rubisso. Sì, pompa, avevamo già fatto delle prove anni fa, l'Icom col Kenwood si sposa bene, anche il Kenwood con l'Icom, la stessa cosa, vanno bene, 60 se lo metti su una radio Icom va benissimo, però l'SM20 lavora molto bene con questa radio, capite? Con l'adattatore da Icom a Kenwood, non ho toccato nessun connettore, niente, perché questo microfono è dell'Icom, capito? Siccome non lo stavo usando, allora gli ho attaccato di nuovo, perché l'MC60 l'avevo venduto. E quindi mi sono trovato con un MC60 in meno, ma già me lo ricompro un altro. E questo lo metto dov'era. Gappa di Roggero. Già va bene, già. Ma magari sono quasi rimasto in radio, mi so. Tutti uguali sono, c'è chi dà qualcosa in più, chi ha qualcosa in più, il top di queste 430, 430, 440, 146, 80 e 440, poi c'è il 430, che è una bellissima radio lo stesso, poi c'è il 680, poi c'è il 140, ma 140 e 680 sono uguali, insomma. Una 680 c'ha una banda in più, che sono i 6 metri, basta, però se tu li apri e io ti cambio i tappi non li conosci, sono uguali, precisi, identici all'interno, c'è solo la scheda dei 6 metri e buh. Io se a me è buono. A me andava bene, il base andava bene per me. E più là, quando fa troppo, devo pigliarmene una. Prendi un 140 in tutti i lampi, tutto, metti tutto dentro il cassetto, ma sono convinto al 100%, perché non hai bisogno di lineare, non hai bisogno di niente, di nulla, devi avere un buon alimentatore, una buona antenna, boh, basta. Poi, a voglia, a vatte, no, non ce n'è più, guarda, questa sta modulando, allora, non hanno con 20 watt modulati 50, fate il conto. Chi sa già pompa in occhia? Ma c'ho poco poco di stazionaria, 1,3 così, non li fa di nulla, no? No, sai qual è il problema di quell'antenna, ho già sperimentato un po' da tutti, che quando c'è umidità, a volte salgono, a volte abbassano le stazionarie, quando piove la stessa cosa, c'è questo problema, però è un'ottima antenna, va bene. Beh, gira, ma abbassane. Evidentemente l'umidità le fa abbassare le stazionarie, ad esempio a Mauro quello lì punti, quando pioveva le salivano le stazionarie, quando i rasori che si asciugava l'antenna erano a zero, mai visto, non si muoveva manco l'avevo dello strumento, mentre invece quando pioveva salivano 1,4, 1,5, 1,6. Che seriale, allora stasera mi si sono abbassate. Faccio sempre il suo strumento, cavolo, me l'ha regalato una bassona, me l'ha regalato. Funziona benissimo, funziona. Non so se lo conosci, lo strumentino della Intec. Sì, quello piccolino. E io ne ho uno vintage, figurati, di quello che si attacca a parete, lungo, con l'antennino. Non di strumenti vintage, anche a me me l'hanno regalato. Poi ne ho un altro che però fa VHF, piccolino, quanto è un pacchetto di sigarette, che però è da macchina, capito? Serve per macchina, quello lì, me lo puoi attaccare anche in macchina, però è VHF. Insomma, funziona con la meraviglia, me l'aveva dato un po' di anni fa, una bassona, adesso me l'aveva regalato, io l'ho sempre tenuto, non l'ho mai data a nessuno. Ma funzionava con una meraviglia, funziona con una meraviglia. Intanto le cose quando funzionano bisogna tenerle, non è che gli si rampino. E scappa. Ma ne ho comprato altri gli strumenti perché già funziona questo, cosa compare già fa. Ma infatti cosa demonia la ciambaia fa? Se funziona bene quello lì, basta uno strumento giusto per le stazionarie, per controllare. Tengo sempre a attaccato io. È giusto così, devi tenere sempre attaccato, sempre tutto sotto controllo, io la T230.